è un primato, come dire, soggetto a verifica, Raul, perché mentre Gerd Müller gol non ne può più fare, Raul, che ha un gol di distacco di distanza da Inzaghi, gioca tuttora la Coppa, la Champions League con lo Schalke 04 e può continuare evidentemente, così come può continuare Inzaghi. Sì, la sensazione è che Inzaghi sia più fresco e soprattutto sia un giocatore che cioè in questo momento goda di una situazione migliore proprio per il fatto che può entrare a partita iniziata, può entrare nel finale, può entrare nelle azioni particolari, magari anche un po' confuse, un po' così, insomma, segnare questi gol che davvero non si insegnano. Cioè Inzaghi è un giocatore che non si può riprodurre da questo punto di vista, perché è veramente complicato, credo sia molto complicato, mi piacerebbe sentire l'opinione di chi insegna nelle scuole calcio, perché insomma spiegare Inzaghi, cioè, mentre puoi spiegare un altro tipo di giocatore, ma non è detto che poi tu sia in grado di far capire bene ai ragazzini come si muove Ibrahimovic o quello che fa Ibrahimovic, perché c'è sempre un tocco di genialità in questi giocatori. Spiegare Inzaghi ai ragazzini è onestamente, secondo me, un'impresa non possibile, e dunque trattasi di giocatore unico, non replicabile, e che effettivamente, come hai detto tu, perché insomma nel primo gol ci metto anche un cross sbagliatissimo di Ibrahimovic, cioè dopo la scivolata di Pepe già, ci sono 3-4 certo. Padelle, sono 3-4 macchie su quella camicia, però lui la confeziona perfettamente, perché lui ancora una volta è lì come un palco. È lì, al posto giusto nel momento giusto, questa è la sua... Una cosa inenarrabile, certo. Perché comunque anche il secondo gol dove Casillas fa un errore colossale, ma comunque Inzaghi fa una roba di una facilità apparente, totale. Lui arriva davanti al portiere campione del mondo, questo salta e lui gli mette un piattone, la palla va dentro piano e, sì, e sì. San Siro impazzisce. Cioè, queste non sono cose onestamente spiegabili, sono cose che lui fa. Poi ci sono le partite nelle quali ti fa disperare perché magari finisce 10 volte in fuorigioco, e altre nelle quali fa questo.